Il Signore disse a Mosè: «Ancora una piaga farò venire sul Faraone e sull'Egitto. Dopodiché vi manderà via di qui, e quando vi manderà via, vi caccerà definitivamente di qui. Di dunque agli orecchi del popolo: ogni uomo al suo vicino e ogni donna alla sua vicina chieda oggetti d'argento e oggetti d'oro». Il Signore concesse grazia al popolo agli occhi degli egiziani. Anche Mosè era un uomo molto grande in terra d'Egitto, agli occhi dei servi del Faraone e del popolo. Mosè disse: «Così ha detto il Signore: a metà della notte io uscirò in mezzo all'Egitto, e morirà ogni primogenito in terra d'Egitto, dal primogenito del Faraone che siede sul suo trono, fino al primogenito della serva che sta dietro alla mola, e ogni primogenito del bestiame. Ci sarà un grande grido in tutto il paese d'Egitto, come non c'era mai stato e come non ci sarà. Ma contro i figli di Israele neppure un cane aguzzerà la sua lingua, dall'uomo alla bestia, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra Egitto e Israele. Allora tutti quei tuoi servi scenderanno da me, mi adoreranno dicendo: esci tu e tutto il popolo che ti segue. Allora uscirò». E uscì dal Faraone infiammato di collera. Il Signore aveva infatti detto a Mosè: «Il Faraone non vi ascolterà affinché i miei prodigi siano numerosi in terra d'Egitto». Mosè ed Aronne fecero tutti quei prodigi davanti al Faraone, ma il Signore indurì il cuore del Faraone, che non mandò via i figli di Israele dal suo paese.